Allora, un attimo. Siamo in collegamento telefonico con Chiara Becchimanzi, una delle curatrici di teatri d'arrembaggio ad Ostia, dal 21 luglio al 26 agosto. Chiara, ben trovata. Che Grazie, ben trovato a te. edizione Allora, è la quarta è? edizione. Ok. È iniziata come una scommessa questa storia dei teatri d'arrembaggio appunto 4 anni fa, e invece poi si riconferma come uno degli appuntamenti fissi di Ostia, insomma, del litorale romano. Sì. Senti, come si struttura? Dunque, la rassegna dal titolo, diciamo, nel titolo racchiude un po' tutti i tipi di appuntamenti, perché teatri d'arrembaggio, pirateria, incanti e castelli di sabbia. Le piraterie sono gli spettacoli serali, sabato sera più venerdì 24 agosto, e sono spettacoli per adulti, comici per adulti, quindi stand-up comedy, teatro off e giovani artisti. Mentre la domenica pomeriggio abbiamo gli spettacoli per bambini, gli incanti appunto, dalle 19, e il venerdì pomeriggio ci sono i laboratori artistici e artigianali per bambini e bambine di tutte le età. Ok. Tutto gratuito, la maggior parte degli appuntamenti al Teatro del Lido di Ostia, perché poi ne abbiamo fatti alcuni la settimana scorsa, 21 e 22 luglio, sul lungomare, abbiamo fatto il flash mob per formativi. E un altro sarà domani sera alle 19 al Pontile di Ostia, una performance di danza urbana che è il risultato di un workshop che parte sempre della rassegna che finirà domani appunto. Quanti sono gli spettacoli in totale? Sono oltre 18 eventi, sono due spettacoli a weekend, tranne il primo e l'ultimo che hanno tre spettacoli, quindi sono un sacco di roba. Senti, per gli spettacoli per gli adulti, cosa avete scelto? Dunque, inauguriamo appunto domani con Daniele Parisi, premio IMAIE per attori emergenti 2016, per l'interpretazione di Oresti, è un film indipendente sicuramente da vedere. Daniele Parisi ci propone il suo quarto monologo, o quinto, devo andare a verificare, in realtà si chiama EOE ed è un discorso visionario sulla fine del mondo, assolutamente comico. Mentre sabato 4 agosto avremo Pietro Sparacino con il suo Dio degradabile, potere logora chi ce l'ha, quindi direi che il sottotitolo già ci dice qualcosa dello spettacolo. La terza settimana ci sono io con il mio secondo monologo dedicato all'universo femminile, si chiama Girls Just Wanna Have. E poi proseguiamo con Daniele Fabbri e il suo Fascisti su Tinder il 18 agosto. E l'ultimo weekend appunto c'è il Pienone, perché venerdì ci sarà Matteo Cirillo con Aspettando una chiamata, che è lo spettacolo che abbiamo selezionato dal Fringe, dal Roma Fringe Festival 2017. E invece chiudiamo le piraterie con Francesco De Carlo, con il suo nuovo monologo live, l'ultimo sabato, quindi sabato 25 agosto. Ok. Qual è la filosofia dei teatri d'arrembaggio? Questa domanda mi piace molto perché sono contenta di raccontare che i teatri d'arrembaggio vogliono essere un simbolo della estrema reattività e dell'humus culturale che ad Ostia c'è, che noi portiamo avanti da anni, che gravita attorno al Teatro del Lido, ma non solo, che coinvolge tante persone del territorio e soprattutto coinvolge una comunità di spettatori e spettatrici estremamente partecipativa e sempre interessata a vedere nuovi impulsi. E anche la rassegna nasce anche con l'intento di intercettare lo spettro di pubblico più ampio possibile, quindi raggiungere finalmente la fascia 25-40, che è un po' quella storicamente difficile da raggiungere per gli eventi teatrali, ma nello stesso tempo offrire alle famiglie un concreto momento culturale dopo la giornata di mare. Vedo che per i riferimenti c'è una pagina Facebook di Teatri d'Arrembaggio. Esatto, la pagina Facebook è proprio Teatri d'Arrembaggio. C'è anche il sito internet, che è il sito dell'associazione che ha ideato la rassegna, che è l'associazione che io rappresento, cioè Valdrada. Quindi il sito è www.valdradateatro.it. Perfetto. E per, diciamo, le informazioni c'è cioè l'indirizzo mail info@valdradateatro.it e la prenotazione è necessaria soltanto per i laboratori e per lo spettacolo Aligatou, che è uno degli spettacoli per bambini, che si svolge all'interno di un piccolo tendone, quindi il numero di posti è limitato. Bene, allora quarta edizione di Teatri d'Arrembaggio ad Ostia dal 21 luglio al 26 agosto. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Becchimanzi, che è una delle curatrici. Chiara, un abbraccio e un in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a te, grazie mille. Crepi il lupo o viva, a seconda dell'orientamento. Ciao.